poi ci penso su, perché mi sento giù, forse perché non lavoro quasi mai. Solamente sì, deve essere così, è che mi manco ogni giorno un po' di più. Ma la verità, bisogna ammetterla, è già che chi mi manca sei tu, che chi mi manca sei tu. Per non pensarti più, mi guardo un film a tu, che cosa fai? Persino dentro la TV. Sai, non pensavo che nel mezzo del Far West l'avrei incontrata, anche vestita da cowboy. Ma lo sceriffo no, non ucciderlo no, che ha già ferito anche me, che ha già ferito anche me. E poi ad un tratto dallo schermo cadi giù, e ti avvicini, come stai? Io bene e tu? Non può essere, allora è un'ossessione, stai diventando c'è. Non sto pensando a te, cosa ci fai qui per strada insieme a me? Non ti rispondo, no, c'è troppo traffico e che sono un pazzo, già lo dicono da sé. Ma se mi giro e mi rigiro, non ci sei, dove sei, dove sei? Sei già lontana tra la gente, un punto tu, che se mi sforzo vengo ancora e poi non vedo più. Allora è vero, sei la luce. Poi ci penso su, perché mi sento giù, forse perché non lavoro quasi mai. O solamente sì, deve essere così, è che mi manco ogni giorno un po' di più. Ma la verità, bisogna ammetterla, è già che chi mi manca sei tu, che chi mi manca sei tu.